la amaba, e festa corte si annunciò. Samba, il re gridava, per voi quest'oggi ballerò. Il re del Portogallo voleva ballar la samba, ma essendo poco in gamba, cadendosi ferì. Piangeva dal dolore, gridava che sciagura, e per la gran figura il viso si coprì. Le principesse e la regina, un po' commosse, non sapesse ridere, piangere, ridere. E il re del Portogallo non sa ballar la samba, a noi che siamo in gamba sorridere ci fa. Ballar la samba, ma essendo poco in gamba, cadendo si ferì. Piangeva dal dolore, gridava che sciagura, e per la gran figura il viso si coprì. Le principesse e la regina, un po' commosse, non sapesse ridere, piangere, ridere. Se il re del Portogallo non sa ballar la samba, a noi che siamo in gamba, sorridere ci fa. Sorridere ci fa, sorridere ci fa.